Mix 24 di Giovanni Minoli. Chacun convient, l'Union européenne est un échec. Si infiamma la campagna elettorale in Francia. Nell'annunciare la sua candidatura, la leader della destra, Marine Le Pen, ha promesso che in caso di vittoria chiederà ai francesi di lasciare la NATO e l'Unione Europea. E chi pourrait se satisfaire de ne rien faire? Wortwörtlichen Sinne also. Und ich versuche das immer und überall. Mi ricandido a guidare il partito al prossimo congresso e il paese come cancelliera alle elezioni del 2017. Angela Merkel lo ha annunciato al mondo, si ricandida alla guida della Germania che governa dal 2005. Es geht bei allem was. Just been to Buckingham Palace. Theresa May ha vinto la lotta per diventare primo ministro. Eletta in Parlamento nel 97, 5 anni dopo è la prima donna a capo dei Tories. Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I accepted. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Molto del futuro dell'Europa dipende dall'esito del voto alle presidenziali francesi del prossimo 23 aprile. E molto della politica europea è legata ai destini e alle scelte di alcune donne. Marine Le Pen in Francia, Angela Merkel e Frauke Petri, leader del Partito Nazionalista in Germania, Theresa May nel Regno Unito. Ecco, Alessandro Campi, docente di storia del pensiero politico all'Università di Perugia. Professor Campi, lei è anche uno studioso del mondo della destra. Che impressione le ha fatto il discorso di apertura della campagna presidenziale di Marine Le Pen? Marine Le Pen è una nazionalista francese, si è comportata esattamente come tale. Tra l'altro abbiamo finalmente capito quello che c'è dietro il cosiddetto populismo. In realtà c'è una rivendicazione di stampo nazionalistico che in teoria conosciamo molto bene. Ecco, della Le Pen tutti dicono che non può vincere, però si diceva lo stesso di Trump, della Brexit. Insomma, il fenomeno della Le Pen potrebbe anche essere sottostimato? In questo momento sicuramente sì, la lezione di Trump è che oggi si può vincere per esempio su una piattaforma politica molto radicale. Noi per decenni abbiamo detto che per vincere bisogna conquistare il centro, gli elettori di centro, ammorbidire toni. La lezione dagli Stati Uniti è esattamente questa, che significa che stavolta l'Union Sacrée contro la Le Pen potrebbe non funzionare. Potrebbe non funzionare. Ecco, ma mettiamo che l'ipotesi che la Le Pen dovesse vincere. Dopo la Brexit diventerebbe naturale anche una Frexit, stando alle parole della Le Pen. Ma guarda, i francesi si sono già pronunciati una volta in realtà sull'Europa e si sono pronunciati negativamente, anche se abbiamo dimenticato quell'episodio. Quello che dice Le Pen è che riporterà nuovamente i francesi al voto, non sarà ovviamente un'uscita automatica. Certo, i segnali per il fronte europeista sono pessimi, però piuttosto che prendersela con gli anti-europeisti, forse bisognerebbe prendersela con se stessi, chiedersi per esempio se la retorica europeista che viene utilizzata nei discorsi pubblici sia ancora efficace, abbia ancora presa sui cittadini. Io ho l'impressione di no. Ecco, comunque la Le Pen viene prima di Trump, prima della Brexit, ed è presente in molte amministrazioni locali francesi, quindi potrebbe in qualche modo aver già conquistato il voto della borghesia francese. La Le Pen secondo me ha fatto una versione più raffinata, ha conquistato il voto dei ceti popolari francesi. Forse la borghesia è più antilepenista di quanto non siano gli operai o di quanto non siano gli elettori della Francia cosiddetta profonda. Lo slogan con cui si è presentata, né destra né sinistra, è vero che anch'esso è molto antico e forse ci rimanda persino alla Francia di Vichy, ma è anche un modo per dire che lei vuole unificare i francesi e parlare a tutti i cittadini, in particolare quelli che sono esclusi dal gioco della grande finanza. Sì. Senta, in Italia comunque nessuno dichiarava, o pochi dichiaravano, di votare per la Democrazia Cristiana, poi la Democrazia Cristiana stava al 35%. Non potrebbe capitare qualcosa di simile anche con la Le Pen in Francia? Ma questo è il problema delle, diciamo, grandi democrazie, c'è, cioè, ormai una distanza molto forte tra, diciamo, l'opinione pubblica così come viene costruita da giornali, da stampa ufficiale, e sentimenti collettivi che nessun istituto di sondaggio riesce poi riesce più a cogliere, esattamente. Esattamente quello che è accaduto anche negli Stati Uniti. Senta, ma professor Campi, cosa c'è del gollismo nella proposta politica di Marine Le Pen? Uscire dalla NATO, per esempio, una proposta tipicamente gollista, ha fatto, esatto, molto scandalo questa dichiarazione, ma insomma, i francesi si sono sempre trovati male all'interno di un'alleanza politico-militare egemonizzata dagli Stati Uniti, quindi da questo punto di vista niente di nuovo. Richiama una memoria antica, cara anche alla destra democratica francese. E infatti nel 96 De Gaulle uscì dal comando della NATO affermando che sul suolo francese dovevano comandare i francesi, quindi non c'è da sorprendersi. Assolutamente, sarà anche una mossa molto furba quella della Le Pen. Il rapporto della Francia con l'Unione Europea è sempre stato molto complicato, l'ha detto lei prima, Chirac aveva fatto il referendum e ha vinto il no. Insomma, la storia insegna e dovrebbe insegnare. Il rapporto con l'Europa, della Francia con l'Europa, era mediato dal rapporto che la Francia aveva con la Germania. Esatto. Fino a che è stato un rapporto paritario, c'è stato un duopolio. La Francia da qualche anno è in una situazione di crisi economica e sociale molto forte, quindi c'è una situazione di asimmetria con la Germania che spiega anche questi malumori crescenti della Francia nei confronti dell'Europa. Non sono più i grandi registi del processo di unificazione come sono stati per moltissimi anni, anche, certo, loro cominciano a sentirsi un paese in crisi e forse anche periferico, anche loro soffrono l'egemonia tedesca. Certo, senta, la grande crisi di Fillon, la difficoltà che incontra in questo momento, favorisce ancora di più la Le Pen, ci sarà un effetto, potrebbe esserci quasi un effetto Trump a favore della Le Pen. Potrebbe esserci un effetto Trump, però potrebbe esserci anche un effetto Macron, è un personaggio che fino adesso abbiamo sottovalutato, ma se dovesse uscire di scena Fillon potrebbe essere lui il candidato sul quale poi convergono i voti e le simpatie del centrodestra e del centrosinistra. Tra l'altro non ne trarremmo una lezione molto interessante, cioè che i candidati che si mettono fuori dai partiti, sono anche più, se magari aiutati dalla fortuna come nel caso di Macron, sì, diventano convincenti e competitivi. Certo. Ecco, professor Campo, quanto pesa in Francia il confronto tra l'identità culturale nazionale e la questione islamica, che sembra molto, molto centrale in Francia? Pesa tantissimo, perché il nazionalismo francese ha una storia antica, così come il senso di appartenenza e di identità dei francesi è molto forte, nonostante ci sia poi anche una vocazione universalista di matrice rivoluzionaria, però la Francia è dove è nato il nazionalismo ottocentesco e novecentesco, quindi, e dove peraltro adesso c'è anche una presenza musulmana che rende, come dire, la questione islamica però è molto, è molto forte in Francia. Molto forte per ragioni storiche, sì, c'è un passato coloniale della Francia che è, esatto, molto diverso da quello di altri paesi, c'è anche una presenza fisica nelle città francesi di comunità musulmane che per esempio non esiste in Italia. E che non è stata integrata, o che poco. Non si è mai integrata, nonostante appunto poi in gran parte siano cittadini francesi. Certo. C'è anche un problema di concentrazione di queste comunità che sicuramente ha prodotto tensioni sociali, sono comunità che vivono spesso ai margini delle grandi aree metropolitane. Da questo punto di vista l'Italia ha avuto un modello di integrazione forse più virtuoso, essendo una realtà molto policentrica l'Italia, non ci sono grandi realtà metropolitane, l'immigrazione si è sparpagliata in più nel paese, ecco, senta, si è concentrata e questo ha creato, quindi, grandi tensioni. Senta, professor Campi, populista è un termine che viene usato ancora in termini più o meno in senso dispregiativo, però non sarebbe ora di cambiarlo per usare categorie, parole più utili per capire un fenomeno che invece sta diventando maggioritario? Guardi, secondo me bisogna tornare a termini più forse tradizionali ma più esplicativi. Quello che abbiamo di fronte appunto non è populismo, che è una parola che poi vuol dire veramente poco, sì, poco più di un insulto ormai. E secondo me nazionalismo, ormai c'è questa tensione, esatto, molto forte tra, come appunto si definisce la stessa Le Pen, i patrioti, coloro che rifiutano la globalizzazione, il mondialismo e vogliono tornare a un senso dell'appartenenza nazionale molto, molto più forte. Un bisogno di identità, insomma. Un bisogno di identità che non ha niente a che vedere con il populismo, non ha un contenuto politico specifico. No, è protestatario. È uno stile retorico, sì. è un modo di presentarsi sulla scena pubblica utilizzando la propaganda, la retorica, enfatizzando gli aspetti irrazionali ed emotivi. Ma in sé il populismo non ha un contenuto specifico, lo ha invece il nazionalismo, certo. È la proposta di Trump, la proposta della Le Pen, America la proposta first, di molti dei partiti cosiddetti populisti in Polonia, in Ungheria, dove sono già al potere, è una proposta tradizionalmente nazionalista. Certo, ecco, comunque la politica europea in questo momento è legata a destini, azioni soprattutto di donne: Marine Le Pen in Francia, Angela Merkel, Frau Petri in Germania, Theresa May nel Regno Unito. In Italia vede anche qui un leader al femminile in arrivo? Non ce ne traccia al momento. E che significato, che senso ha questa esplosione della leadership femminile in tutta Europa? Ha un senso o è casuale? Ma guarda, in realtà potrebbe anche non significare nulla. In Asia esistono da sempre grandi leader donne, però per esempio questo non ha nulla a che vedere con i processi di emancipazione sociale. Sono ancora società molto chiuse, paradossalmente molto, molto maschiliste, nonostante poi dal Pakistan all'India, certo, abbiano donne leader. Quindi la questione di genere non significa necessariamente un avanzamento del costume politico. Okay. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Insomma, Mario, queste elezioni francesi saranno uno spartiacque per l'Europa. Sì, anche perché la rappresentazione che ne viene data finora, almeno dal mainstream dei media, la stampa, i giornaloni eccetera, è quello a una dimensione. Io non sono sicuro, per esempio, che l'Union Sacrée contro la Le Pen possa funzionare. Potrebbe ovviamente, perché la storia dice questo, però non ne sarei così certo. Penso che la storia c'ha molte cose nuove che deve digerire. Esatto. Penso che Parigi non sia la campagna francese, come l'Ohio non era New York. Penso che la borghesia francese in qualche maniera sia solleticata dall'idea di votare la Le Pen, o comunque condivida alcune idee. Ecco, a proposito della borghesia francese, Pietrangio, il Front National secondo te è ancora l'uomo nero, oppure la Le Pen è riuscita davvero a cambiare quel partito e a convincere anche un pezzo della borghesia, diciamo? Lei è riuscita a entrare in una vena viva. Ed è un esempio che riguarda tutti, anche noi italiani. Vi ricordate, per esempio, alle elezioni ogni volta nei quartieri altolocati, altoborghesi, sì, ricchi, vincono sempre i democratici, sì, mentre invece i puzzoni, certo, vincono sempre dove c'è la periferia, dove c'è il proletariato. La famosa battuta. Vi faccio sentire un frammento del 1992, notate bene, 1992, in un film, La crisi di Colin Serrault, c'è il dialogo tra un povero puzzone proletario e un alto borghese. Ascoltate. E lei, Michou, che cosa ne pensa? Beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a Nuit che quando si abita a Saint-Denis. Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi, invece, vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michou, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente, sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme, non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi, guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con i loro chador e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta un limite. Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale della Francia terra d'asilo? Boh, io che ne so che ne è. Allora lei vota Le Pen? Ah no, non posso votare, non ho fissa dimora. Forza, quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali l'essere razzista. Ah beh sì, ma quello che capisco è che tre quarti del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringe per fargli posto e farli sopravvivere, oh. Vabbè, appunto. Ah sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di Saint-Denis, mica quelli di Nuit. E poi quelli di Saint-Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero? Mi dica un po', Michou, non sarà un po' comunista? Ah no, non sono comunista, sennò è da un pezzo che avrei avuto la casa, eppure mio fratello. E allora si sbrighi a prendere la tessera del partito prima che scompaia definitivamente. Da 1992. Non male. Tutto questo nel 1992. Pensa come sono indietro ancora. No, non ha capito nulla. Una splendida provocazione, grazie. Pietrangelo, con noi è Veronica De Romanis, economista, autrice di molti saggi sulla Germania, biografa di Angela Merkel. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ha sentito che bella provocazione di Pietrangelo Buttafuoco. Senta, professoressa, Angela Merkel a questo punto è l'ultima spiaggia per l'Europa? In questo momento in Europa è l'unico leader che ne difende i valori di libertà e di solidarietà, e poi a mio avviso di fronte alle grandi sfide come l'immigrazione è l'unico leader che ha preso una decisione forte di discontinuità, e infatti ieri Mario Draghi ne ha preso le difese in un certo senso. Beh, Mario Draghi è ritornato su posizioni precedenti perché aveva oscillato, esatto, un po' nell'ultima settimana, mi sembra, sì, no? Sì, sta riprendendo l'asse Germania, Banca Centrale Europea. Vorrei sapere quante legnate ha preso sulla testa, però, diciamo, per farlo. Senta, molti decantano le doti della Merkel, però dentro il suo paese è nato un movimento nazionalista guidato da un'altra donna molto in gamba, Frau Petri, ecco, che entrerà nel Bundestag. Insomma, non è andato tutto bene, non è una passeggiata di saluto a quelle delle elezioni della Merkel. L'errore che ha fatto la Merkel in questi anni è di aver spostato il suo partito verso il centro, e quindi inevitabilmente ha lasciato uno spazio a destra che è stato occupato appunto dal partito, questo nuovo movimento a cui a capo c'è la Petri. Però quando è nato il partito era un partito antisalvataggi, cioè era un partito che raccoglieva il malcontento dei tedeschi che erano stanchi di pagare per i dissesti altrui. Ora la Petri, quando è diventata leader del partito, lo ha spostato verso temi contro le immigrazioni, utilizzando il malcontento. Quindi deve recuperare un terreno, diciamo, che deve ha lasciato libero. Deve recuperare sull'immigrazione, sì, soprattutto, deve spiegare, certo, la sua decisione delle porte aperte. Senta, professoressa De Romanis, ma se vincesse la Le Pen in Francia, secondo lei in Germania, che si vota dopo, ci sarebbero delle conseguenze? Ma ci sarebbero delle conseguenze innanzitutto in Europa, perché... No, ma parlando della Germania. Questo potrebbe creare, bisogna vedere poi cosa fa la Le Pen, ne parlava prima il professor Campi sull'uscita dell'Europa, perché è chiaro, certo, che se ci fosse un'uscita della Francia si potrebbe immaginare a un gruppo di paesi che rimangono con la Germania, questo dipenderà appunto... Cioè la famosa Europa a due velocità, insomma, la doppia Europa. Beh, l'Europa a due velocità di cui ha parlato la Merkel è un'Europa su l'immigrazione, sul terrorismo, sulla sicurezza, non su i parametri europei economici, quindi sarebbe più su queste altre sfide. Ma quindi è in questo senso che la Merkel potrebbe pensare a uscire dall'Europa, da questo punto di vista, diciamo? Sì, lei non ha parlato di allentare regole fiscali, di fare un euro debole, un euro forte, lei... Ne ha parlato, in realtà ne aveva già parlato quando furono decise le quote e quando ci fu la resistenza dei paesi dell'est, dicendo l'Europa è fatta sulle solidarietà, se non condividiamo questi valori andiamo avanti con chi li condivide. Ne aveva già parlato di un'Europa a due velocità, ma dal punto di vista dei valori. Ora ovviamente si comincia a parlare di difesa, di terrorismo, di altre cose. Certo. Ma i dettagli si vedranno poi in futuro. Ecco, però di che questa Europa ha contribuito a costruirla, dice però che invece è ora di costruire un'Europa a due velocità, se lo dice con chiarezza. Lei è d'accordo? Lo dice appunto perché sennò si rischia che ci sono dei paesi che mettono dei veti e che rallentano un percorso che è già molto complicato, perché siamo a 28, saremo a 27. Se ci sono dei paesi, come hanno fatto i paesi dell'est, che possono mettere dei veti e dire no, noi questa cosa non la facciamo, ad esempio la redistribuzione degli immigrati, è chiaro che diventa molto complicato andare avanti. Quindi l'idea è di dire su alcune grandi sfide chi non vuole procedere a una certa velocità, allora fa parte di un altro gruppo. L'Italia dove starebbe secondo lei? In quale velocità parterebbe? Io mi auguro che abbia voglia, ma si è visto anche ultimamente sull'immigrazione e sulla sicurezza, mi sembra che l'Italia sia assolutamente in linea con la Germania. Quindi questo Euromarco, scusi, che ha fatto da volano all'economia europea, comunque a guida tedesca, perché la Merkel dovrebbe accettarlo? La Merkel, appunto, dicevo, non vuole una divisione sull'euro. Il punto non è un euro più debole o un euro più forte, il punto è condividere i valori dell'Europa. Ma per Trump il problema è anche un euro più debole e un euro più forte. Beh, certo, questo lo sappiamo. Una settimana fa Trump ha criticato la Germania, ieri appunto Draghi invece l'ha sostenuta, perché per Trump sarebbe molto, molto meglio avere una Germania più debole, una Germania che esporta di meno e quindi un euro più forte. Ecco, ma quanto questo record di suo... chiedo scusa, quanto, che tipo di campagna elettorale farà Angela Merkel? Dunque, la Merkel sicuramente farà una campagna sull'Europa, questo per non lasciare il tema all'altro candidato dei socialdemocratici, Schulz, che sta aumentando moltissimo nei sondaggi. Probabilmente farà anche qualche critica alla BCE sui tassi bassi, troppo bassi, ma magari lo farà fare al suo ministro delle finanze, Schäuble. E cercherà di spiegare ovviamente l'immigrazione, perché là vuole cercare di prendere voti al partito di cui si parlava prima, al partito nazionalista, ecco, e ovviamente dirà che ha bisogno dell'Europa. Ma questo Schulz, che appunto, come dice lei, che avanza anche in un modo insospettabile così rapidamente nei sondaggi, che cosa significa? Cioè, i tedeschi cominciano ad avere dei dubbi sulla Merkel? No, io penso che sia un effetto prima di tutto della novità. La Merkel è lì dal 2005, quindi Schulz chiaramente è nuovo, non è nuovo in politica, ma è sempre stato in politica europea, quindi al Parlamento europeo, quindi è nuovo nella politica nazionale, e quindi è chiaro che c'ha un effetto novità. La Merkel però in tutti questi anni ha rassicurato molto i tedeschi, a mio avviso è riuscita a convincerli che si potevano fare dei passi in avanti in Europa, e qui per esempio penso al quantitative easing, all'allentamento monetario. Questo è uno strumento di cui noi italiani beneficiamo moltissimo, perché siamo coi tassi bassi, stiamo risparmiando circa 6 miliardi di spesa per interesse, ed era inimmaginabile per i tedeschi solamente pensare a far ricorso a uno strumento simile. Ecco, senta, eppure piano piano è riuscita a convincerli. Senta, professoressa De Romanis, ma sul piano dei contenuti, la proposta di Schulz in che cosa è diversa da quella della Merkel? È un europeista, e questo è bene che in un paese ci sta almeno un paese in Europa in cui i due candidati sono entrambi pro Europa, si capisce cosa vogliono. Che è convenuto di più, ci mancherebbe. In che senso è convenuto di più? All'economia tedesca, l'Europa. L'economia tedesca è entrata nell'euro, ha saputo sfruttare l'euro, ma ha fatto le riforme che bisognava fare, lo potevamo fare anche noi. Sì, all'inizio, ma per carità. Noi, quando siamo entrati nell'euro nel 2003, avevamo esattamente la stessa spesa pubblica dei tedeschi, 47%, 4 anni dopo loro erano al 42, noi al 48. Quindi noi non abbiamo sfruttato i vantaggi dell'euro, loro sì, infatti durante i primi 10 anni dell'euro da malati d'Europa sono diventati la grande locomotiva. Senta, De Romanis, la Merkel è una donna che viene dalla Germania dell'Est, cerca il suo quarto mandato, lo sappiamo, ma questo fatto di venire dalla Germania dell'Est, in che rapporto la mette nei confronti della Russia di Putin? Lei, prima di tutto, lei parla benissimo russo, perché appunto l'ha studiato. Beh, ora lo sappiamo, ha una posizione molto chiara: finché Putin non rispetta gli accordi che sono stati fatti a Minsk, è difficile che ci sarà un riavvicinamento a breve. Senta, la Theresa May, secondo lei, qualcosa ricorda la Thatcher, parlando di donne in Europa che stanno, come dire, dominando la scena politica? No, secondo me non molto, non ha molto della Lady di Ferro. È stata la Theresa May è stata una timida sostenitrice del Remain, del restare. Per molti mesi dopo il referendum ha detto una frase, a mio avviso, senza molto senso, che la Brexit significava Brexit, non si capiva bene cosa volesse dire. Ora ha fatto una svolta radicale con questa hard Brexit. Adesso sì, mi sembra. Sì, però non ha dato molti dettagli. Quindi ma alla fine la Brexit, secondo lei, finirà per essere un affare per gli inglesi? Ma in realtà con la vittoria di Trump le cose sono molto cambiate, perché anche per gli inglesi, sebbene sia un paese grande, sedersi al tavolo invece di avere intorno a sé 500 milioni di europei, essere da soli con Trump, secondo me non è proprio una buona idea. No, perché? Beh, perché si ha molto meno potere negoziale. Senta, scommetterebbe sul successo della May o no lei? Della May... Non, non non saprei molto dirle, come quello che dicevo prima, ora è più complicato per lei. Ad oggi l'economia inglese cresce molto, la disoccupazione è molto bassa, ma è l'effetto delle misure di Cameron, di cui lei era ministro, e infatti devo dire che non le ha criticate, tutte le famose misure certo. di austerità di Cameron stanno funzionando, e infatti lei in realtà ha detto che continuerà da quel punto di insomma, vista. Quello che manca a noi, quell'austerità no. lì sua. La sua austerità. No, noi di austerità non ne abbiamo proprio mai fatta, no, non negli ultimi 3 anni, no. No. Senta, riesce a individuare, abbiamo detto le donne stanno dominando la scena politica europea, c'è qualcosa che accomuna il fatto di essere, a parte essere donne, la Le Pen, la May, la Merkel? No, direi no. proprio di no, appunto, come dice lei, a parte l'essere donne, no, e tra l'altro forse... ci stupiamo solo noi che siano donne, quindi no, non ci stupiamo, pensare, stiamo semplicemente come dire, no, beh, realizzando. In Germania è lì la Merkel da 12 anni. Beh, non so, se si stupivano, se erano stupiti prima, è già finito sì, lo stupore. Il Regno Unito appunto, ci abbiamo avuto la Thatcher, no, io direi che non hanno nulla. Poi c'hanno la regina, quindi non c'è problema. Grazie, dottoressa De Romanis. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, Theresa May è una figura politica che potrebbe sorprendere oppure no, secondo te? Secondo me sì. Perché mi sembra oscillare la posizione della De Romanis. Ma secondo me a May sarà abbastanza sorprendente alla fine. Okay. Già lo è, difatti, perché ha preso una situazione che definire difficile è poco, una situazione caotica. Con Trump ha avuto, come dire, il chiodo a quale appendere, la sua politica. Appendere il quadro della Brexit. Farà una Brexit totale, nel senso che gli inglesi sono per un'uscita radicale dal mercato unico. E mi ha colpito l'altro giorno una risposta che ha dato a Corbyn, molto interessante, al leader del Labour, e gli ha detto: lei può organizzare una protesta, anzi lei può guidare una protesta, io devo guidare un paese. Che certo non è la Thatcher. Vabbè, sembra Roma dei 5 Stelle, più o meno il problema è quello, cioè organizzare una protesta è una cosa, guidare un paese o una grande città è una è cosa un'altra diversa. Cosa. Senti, Pietrangelo, secondo te, destino dell'Europa si decide più con la Merkel in Germania o con la Le Pen in Francia? Con la Le Pen in Francia, se vince, cambia tutto. Sì. Cambia tutto, perché già cambia poi ritornare sulle posizioni, ritornare su De Gaulle e l'uscita dalla NATO, ritornare a una questione forte sull'Europa, significa sfasciare questo equilibrio. E poi è un gioco molto, molto più grande di quanto possa essere con la normalità della comunque. Senti, ma adesso che la nostra Boschi è uscita dal, come dire, dal circuito almeno giro mediatico principale, chi potrebbe essere una futura leader femminile in Italia? C'è? In Italia? Beh, a destra c'è già la Meloni, per esempio, no? Sì. Però appunto guida... No? Cioè è una... Cioè, Giorgia, per intenderci. La Presidenta della Camera... Cosa? No, la presidente, la Boldrini. No. La Boldrini farà la fine di Cassini. Anzi, Cassini si è trovato meglio. No, sarà... posso dire una cosa sulla Meloni? Non è una leader potenziale, se la Meloni della Camera. La Boldrini. Obiettivamente. No, basta guardare. No, guardare. Guardi, vedo impegnata. No, ascoltare ancora di più. Ma noi, presidente della Camera, figurati. Che farà? Vabbè, vedremo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Sarà l'ago i francesi. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Allora, Pietrangelo, oggi cosa sentiamo? Arriva. Mi chiedi ancora cosa c'è, ma se sei triste come me, oh no, può capitare, e meno male che stavi bene neanche te in quello schifo di locale, almeno qui fuori. respirare, parlare senza urlare e nella notte camminare solo io e te. Allora? E allora Diana Cacciatrice, che già ha fatto sentire la propria presenza lasciando tracce, stamattina ha esagerato perché ha fatto esplodere il bianco dei mandorli e ne ha fatti cristalli di neve. Poi ha srotolato un'aurora tutta di brillanti e riflessi, ha chiamato qui al centralino, ha voluto questa canzone di Lucio Dalla, Soli io e te. Per se stessa. Obbligati tra la gente, buttati per caso di, ma per niente, non ci siamo più fermati, faccia a faccia, nel silenzio dove adesso che io pezzo. Bravo Pietrangelo. Allora grande Mario. Pezzo questo. E ti dico, ti do un aggiornamento, anzi prima comincia Sanremo, quindi musica italiana. 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè. Un bellissimo pezzo di Alex Britti, che con la chitarra è veramente bravo, credetemi, dovete andarlo a vedere dal vivo. E Giovanni, due aggiornamenti. Allora, il primo è che lo spread, l'Edi spread è sopra i 200 punti e era abbastanza immaginabile, come dire, che andasse così, visto il vento che soffia sulla politica e l'economia europea, ma soprattutto sulla politica. L'altra cosa è meraviglioso, il governo sta preparando la manovra bis, come sapete tutti, una manovra d'aggiustamento che ci ha chiesto la Commissione Europea, e indovina un po', aumentano le accise sui tabacchi e i carburanti. Una che grande novità, eh sì, una fantasia straordinaria. Dulcis in fundo, vi informo che il sirtacchi finanziario della Grecia non è mai finito. Ieri il Fondo Monetario Internazionale si è diviso sulla partecipazione al salvataggio di Atene. Ricordo a tutti che ci sono 86 miliardi di programma di aiuti finanziari varato dall'Unione Europea. Il Fondo Monetario Internazionale è ancora diviso sulla partecipazione. I tedeschi ieri hanno detto che senza la partecipazione del fondo il programma di salvataggio muore. A quel punto la Grecia tornerebbe in difficoltà finanziarie e fallirebbe. La vera domanda è: ma fallisce la Grecia o è fallita l'Europa? Beh, certo, un altro tassello di questo discorso molto complesso. Perché è bello essere europeisti, e io lo sono, però poi ci sono anche i fatti, e i fatti sono tremendi, sono ragazzi. Tremendi. Salamino! Giugnono o non giugnono? Non si vuole più votare a giugno? È la domanda che si domanda Matteo Renzi, e dà pure una risposta. Benissimo, però si preparino alle conseguenze. Non è giugno, cosa sarà? Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Prossimo si terrà a Roma la direzione nazionale del partito dei post comunisti, cioè il Partito Democratico, e Matteo Renzi, arrabbiatissimo visto che non si giugne a giugno, non lo fanno insomma votare, prepara la sua partita. Se qualcuno dà una cosa a lui, appunto giugno, queste benedette elezioni, lui poi dà qualcosa a tutti. Cosa darà mai? Il premio di coalizione. Insomma, si affilano le lame, si incrociano i coltelli. Renzi, triste e solitario, ma anche arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo poi con Dario Franceschini, con Graziano Del Rio. Fa loro buon viso a cattivo gioco, e come nella notte di Valpurga vede solo incombere il partito delle elezioni nel 2018. E allora il domanda che si domanda, Ludi Cartaci che siano o meno, dice, non potendo votare ci accontentiamo di un brodino. Qual è il brodino? Il congresso, ma non a dicembre, no, prima, quanto prima, così da tornare finalmente nelle aperture dei TG, nelle prime pagine dei giornali e col telefono squillante, non come adesso che ogni volta si guarda quell'iPhone e quello invece piange il telefono perché non ha... Insomma, visto che a giugno non giugnono, Renzi si sfoga col congresso. Ora non lo so, secondo me lui ha chiamato Jim Messina. Ve lo ricordate Jim Messina, no? Americano. Il guru della comunicazione, quello che gli ha preso più di 300.000 euro per fargli vincere, ma stravincere, vincerissimo il referendum, no? Insomma, non è proprio... Se messo Jim Messina gliel'ha fatto vincere, ora per esempio, che cosa ha pensato? Di organizzargli un ciuffetto di sondaggi. Questo per capire cosa sarà la sfida interna del Partito Democratico. E Renzi, non grande potendo entusiasmo dettare l'agenda, comincia a dare i numeri. E i numeri sono questi. Dice, c'è Michele Emiliano che vuole sfidarlo. Bene, Jim Messina gli ha confezionato il sondaggio, perché Renzi prende il 74% e Michele Emiliano il 26%. C'è pure Speranza? Va bene, c'è pure Speranza. Speranza prende l'11%, Emiliano il 10% e Renzi il 70%. Per divertimento, invece, ci sono le virgolette. Notate le virgolette, per divertimento, e lo sottolinea il Corriere di Matteo Renzi, cioè il Corriere della Sera. Per divertimento, più che per preoccupazione, ha fatto testare anche Massimo D'Alema. Allora, Renzi c'ha l'82%. E Massimo D'Alema che cosa va a prendere? Il 18%. Ma più del 10 che gli avevi attribuito. Più del 10. Avanza. Giugnono o non giugnono, Renzi ha comunque trovato la coscienza di sé. Finalmente ha capito chi è. Chi è? Eccolo. Chi è che non conosce Ginger Bullo? C'è chi dice che io sono prepotente perché sono bullo d'Argagliardo e bello, ma non mi importa, non mi serve niente. Chi può parlare con me che c'è il cortello? Io picchio e picchio forte. Ci hanno mandati tanti all'ospedale, ma tanti che non si sa. L'ultima volta che ho fatto a botto ho dato un cazzotto a uno. Au, ancora sta per aria. Per un fallo morire di fame gli danno da mangiare con l'elicottero. Io sono ammonito e sorvegliato. Sono stato 12 o 13 volte carcerato, 2 volte al manicomio criminale, una volta pure al festival di Sanremo. E non mi vergogno di dirlo per niente, anzi, me ne vanto. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, no... Sì, c'è una bolla, ma stavo pensando alle cose che illustrava come al solito Pietrangelo e mi chiedevo, ma tutti questi sondaggi sul congresso, le cose eccetera, quando poi l'unico sondaggio che conta è quello del voto, e quelli sono in questo momento pessimi, non lo so, vabbè, si consolano con poco, devo dire. Prego. E poi sarà come morire la notte che non passa mai, e poi sarà... Allora, questa è Giorgia, meraviglioso pezzo, sempre sanremese. Io tanto, io lo so che tutti diranno non l'ho visto, ma poi tutti saranno là che un'occhiatina gliela daranno. Ma certo, perché no? Perché Giovanni, no? Ce lo devi spiegare, tu che sei un attento. Ma è normale, è un fenomeno popolare, lo certo guardano tutti. È così. E io invece leggevo stamattina una cosa molto interessante che dà l'idea dell'impatto della tecnologia, impatto positivo a volte, devastante altre, su questo, ma non lo so, vediamo. E BNP Paribas, che è uno dei colossi bancari europei, francese, spenderà 3 miliardi di euro nell'innovazione tecnologica nei prossimi 3 anni. Beh. E la banca e il mestiere di banchiere chiaramente sono stati travolti dalla rivoluzione digitale, fine dello sportello, automazione, home banking, conoscete questi fenomeni. La vera domanda da porsi però è se le banche e i banchieri resisteranno all'assalto dei giganti high tech, che di fatto vogliono fare le banche. Vogliono fare la banca. Questo è il futuro. La grande sfida del futuro. Intanto molti ci chiedono qual era il film dal quale ha preso la citazione Pietrangelo. Il film era La crisi. Grande buttafuoco, molti, molti dei nostri ascoltatori hanno, scusa, mi veniva in mente la battuta, la battuta di Flaiano, era, perché non abiti in centro? Perché non me lo posso permettere. Vorrei tornare bimbino, da tutti carezzato, di sera e di mattino vorrei essere sbucellato. Allora chi mi vedeva di me si innamorava, se non mi stringeva, e viva l'alluminio. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che certo la vita che ho sognato un giorno per noi. La voce di Luigi Tenco, naturalmente, perché stasera, lo sappiamo tutti, inizia il 67esimo Festival di Sanremo e per i gialli della storia noi dedichiamo la puntata proprio al mistero della morte di Tenco, scomparso 50 anni fa dopo l'esclusione della sua canzone dalla competizione. E adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, ottobre 2016, un breve intervento del medico di famiglia per l'obesità. Linee guida di tutto il mondo raccomandano che il medico di famiglia, il medico delle cure primarie o di medicina generale, come si dice, faccia uno screening dell'obesità dei suoi pazienti e anche gli inviti a seguire programmi efficaci per una perdita di peso. Si è andati a testare nel mondo reale su 57 medici del Regno Unito e su 1800 dei loro pazienti se una semplice raccomandazione orale di dirgli, dicendogli che il peso era superiore al dovuto e che quindi bisognava prendere delle contromisure, oppure raccomandazione seguita dall'iscrizione in qualche modo gestita dal medico a dei programmi specifici per un dimagramento, avesse un effetto migliore. Tenete presente che questa raccomandazione, raccontano gli autori del lavoro, richiede 30 secondi da parte del medico e si è visto che quelli che però venivano indirizzati a un vero e proprio programma perdevano 2,5 kg contro un chilo e il 25% contro il 14% nei mesi successivi perdeva più del 5% del proprio peso. A dire che ci vuole poco, intanto ricordarsi e che il medico di famiglia faccia questo sforzo regolarmente di avvertire i propri pazienti nel momento che siano sovrappeso e di screenarli e poi inviarli a dei programmi precisi, perché la semplice raccomandazione orale non serve a nulla. Quando si esce dallo studio del medico il paziente se n'è già dimenticato e continua a gozzovigliare. Per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi, se Sanremo deve essere, Sanremo sia. Allora una canzone per chi sperimenta l'azzardo e abbandona freni e inibizioni. È il 1982, è Vasco Rossi con Vado al Massimo. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele. A gonfie